Euroreportage. Europa, il primo donatore al mondo in crisi di identità, di Valentina Furlanetto. Pioggerellina fitta, alternata a raggi di sole, quasi una metafora dell'incertezza in cui si trova il vecchio continente, avvolgeva Bruxelles nelle giornate europee dello sviluppo organizzate dalla Commissione europea. Per parlare di cooperazione e aiuti ai paesi poveri, al Tour en Taxi si sono riunite 5.000 persone da 140 paesi, 400 i relatori delle tavole rotonde e dei dibattiti, attivisti dello sviluppo sostenibile, funzionari, burocrati, volontari, ma anche i grandi nomi dall'alto rappresentante europeo per la politica estera Mogherini, passando per il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon. Ma ha ancora un senso in un'Europa che scricchiola parlare di aiuto ai paesi in via di sviluppo? E che cooperazione? E a quale scopo? Con 68 milioni di euro l'anno, il vecchio continente è comunque il primo donatore del mondo. Di sicuro gli aiuti internazionali per lo sviluppo, che comprendono sovvenzioni, prestiti, consulenze, possono fare miracoli. Per esempio, ricorda l'Economist, sono stati fondamentali nel combattere il vaiolo nel 1970 e nell'aver eliminato quasi del tutto la poliomielite. Purtroppo però comportano rischi. Questi soldi possono anche truccare i mercati finanziari, sostenere dittatori e contribuire a prolungare le guerre civili. O più semplicemente possono essere non abbastanza efficaci. Infatti 795 milioni di persone nel mondo non hanno ancora abbastanza da mangiare. Circa una persona su nove del pianeta non ha da mangiare tutti i giorni. In 25 anni di politiche di aiuti allo sviluppo dell'Europa, la situazione in certe aree dove l'Europa è intervenuta, come nel Sahel, non è cambiata sostanzialmente. Questo significa che i finanziamenti non sono ben indirizzati o non sono ben coordinati e dunque diventano inefficaci? Lo abbiamo chiesto a Bruxelles al commissario europeo per la cooperazione e lo sviluppo, il croato Never Mimica. Actually, European Union is the only party that collectively committed to reach the 0.7%. L'Unione Europea è l'unica che collettivamente dona una somma di 68 miliardi di euro, il che ne fa il principale donatore al mondo di aiuti per lo sviluppo, con un incremento del 15% rispetto ai 59 miliardi del 2014. Parliamo di più della metà degli aiuti che vengono stanziati da tutti i paesi del mondo. No other country in the world took this commitment officially. Insomma, i paesi più ricchi da anni spendono una montagna di denaro per dare una mano ai paesi più poveri. Nell'ultimo decennio, i fondi elargiti dall'UE hanno permesso a quasi 14 milioni di bambini di frequentare la scuola primaria, hanno migliorato l'accesso all'acqua potabile per oltre 70 milioni di persone e hanno garantito l'assistenza di operatori sanitari qualificati a oltre 7,5 milioni di partorienti, salvando la vita a madri e neonati. Ma ancora siamo distanti dal raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti per il 2030. Stiamo aumentando gli aiuti allo sviluppo, ma dobbiamo far sì che gli aiuti siano più efficaci e anche che possano diventare una leva per gli investimenti privati. Potremmo incrementare la capacità dei nostri aiuti di 10 volte se questo avvenisse. From their grant capacity, this could be maybe 10% of the needs only. Yes, we are increasing our. Dobbiamo lavorare in partnership con i paesi che ricevono gli aiuti e con il settore privato. Questa è la chiave di volta per aumentare l'efficacia degli aiuti. Lavorare in partnership. That is the way to implement the sustainable development goals. Working in partnerships. Ma perché non si riesce, nonostante piani di aiuto decennali ai paesi in via di sviluppo, a debellare la povertà? Ne abbiamo parlato con Mario Pezzini, direttore del Centro di Sviluppo dell'OCSE, che a Bruxelles ha partecipato a uno dei panel sugli investimenti privati. Iniziamo a dire che il mondo è cambiato, perché non bisogna dimenticare che 600 milioni di persone sono uscite dalla povertà estrema negli ultimi 30 anni, che 1,5 miliardi di persone sono entrate nel mercato del lavoro mondiale, che i paesi che un tempo erano paesi poveri, in molti casi sono diventati paesi a reddito medio. Le do un dato. Se lei prende il tasso di crescita dei paesi OCSE e lo moltiplica 2 volte, tra il 2000 e il 2010 83 paesi hanno fatto meglio che il doppio dei paesi OCSE. Quindi questo vuol dire che il mondo è cambiato radicalmente. Questa è una nota straordinariamente positiva, senza parlare della scomparsa di alcune malattie croniche. Questo innanzitutto è vero. Sono stati risolti tutti i problemi e soprattutto qual è stato lo strumento di questo cambiamento? Non sono stati gli aiuti allo sviluppo, gli aiuti allo sviluppo sono stati parte. Il finanziamento delle politiche pubbliche, che è la cosa che poi fa la differenza, è venuto principalmente da tasse nazionali, da investimenti esteri, dalle rimesse dei migranti e poi un ruolo l'hanno giocato anche gli aiuti pubblici. Si può riformare, si deve riformare senza alcun dubbio. Le forme tradizionali di aiuto sono spesso macchinose, complicate, sono indispensabili tuttavia, perché alle volte diventano quell'inizio della posta a cui poi si aggiungono altre capacità di spesa e di intervento. Quello che è cambiato però è che non basta finanziare le azioni, bisogna sapere anche che fare. E questo non può venire necessariamente solo dai paesi che pensiamo più sviluppati. Infatti la Cina ha molto da dire, il Vietnam ha molto da dire, l'Uruguay ha molto da dire. E da questo punto di vista ci sono iniziative di politica pubblica che sono nate nei paesi in via di sviluppo e che noi stiamo adottando. Quindi c'è un vasto ventaglio di esperienze ancora da sfruttare. Il ruolo invece dei privati in tutto questo? Il ruolo dei privati è ugualmente fondamentale. Come le dicevo, dopo le tasse, le principali fonti di finanziamento dello sviluppo sono gli investimenti esteri e le rimesse degli immigranti. Quindi gli investimenti giocano un ruolo. Quando vengono dall'estero, ma anche quando vengono dal paese stesso, ovviamente. In che misura si può massimizzare l'impatto di questi investimenti? Questa è la grande questione. Quando gli investimenti sono in miniere o in energia danno un contributo soprattutto in termini di royalties, il contributo in termini di capacità di creare nuovo sapere, nuove capacità non è necessariamente sempre il più alto. Da qui la necessità per molti paesi in via di sviluppo di disegnare una politica industriale che gli permetta di usare questi investimenti nel modo più appropriato agli obiettivi generali. Altre cause dell'inefficacia degli aiuti c'è la proliferazione e la frammentazione dei donatori che non si concentrano su un unico preciso obiettivo. E infine c'è l'abitudine dei paesi occidentali a sostenere i paesi che per varie ragioni sono alleati o ex colonie. In questo modo gli aiuti diventano più o meno esplicitamente degli strumenti di politica estera. La situazione del mondo in generale è molto cambiata rispetto alla guerra fredda. Oggi il nemico non è più il comunismo ma l'Islam radicale. Eppure Afghanistan, Egitto, Giordania, Siria, Turchia nel 2014 hanno ottenuto più aiuti del Bangladesh, che è un paese poverissimo. Aumenta sempre di più la tendenza ad aiutare i paesi che per i donatori hanno un'importanza strategica. La Turchia, un paese sempre più autocratico e non certo tra i più poveri al mondo, ha avuto finanziamenti che sono cresciuti di più di 10 volte tra il 2004 e il 2014. Le giornate europee dello sviluppo sono state anche l'occasione per l'annuncio di progetti e partnership. Carmelo Vella, commissario europeo per l'ambiente, gli affari marittimi e la pesca, ha lanciato l'iniziativa Switch to Green, tesa a favorire l'ecoimprenditoria e la creazione di lavori verdi nei paesi partner. Il commissario europeo per la cooperazione e lo sviluppo internazionale, Never Mimica. One of the important development interventions of the European Union. Uno degli interventi importanti dell'Europa in Africa è nel settore energetico. Quando parliamo con i nostri alleati in Africa, la loro prima preoccupazione è rivolta ai piani energetici e a come migliorarli per le aziende e la popolazione. Il perché è chiaro: senza elettricità non si può portare avanti nulla, non si può pensare di costruire scuole o di avere una produzione agricola efficiente e competitiva. Per questo Unione Europea e Stati Uniti hanno firmato un accordo che prevede il trasferimento di 10 milioni di dollari da Power Africa a Electrify, lo strumento di finanziamento dell'Unione per ampliare l'accesso all'elettricità, che verrà destinato a progetti nelle zone rurali dell'Africa subsahariana. Inoltre abbiamo firmato una nuova partnership da 20,2 milioni di euro con il primo ministro di Samoa, da destinare ad acqua, servizi igienico-sanitari e adattamento ai cambiamenti climatici, e anche un pacchetto di aiuti per la Somalia da 73 milioni di euro. Ma parlando del continente africano, è soprattutto l'elettricità la prima preoccupazione. Il 92% dell'Africa è al buio, privo di elettricità. Per questo abbiamo stretto una partnership con gli Stati Uniti e sono fiducioso che la cooperazione con il programma americano sarà buona. Uno dei momenti più interessanti organizzati dalla Commissione europea alle giornate europee per lo sviluppo è il coinvolgimento nell'evento di giovani da tutto il mondo. Grazie in particolar modo all'iniziativa Young Leaders, ragazzi attivi nel campo dello sviluppo dei propri paesi hanno condiviso idee ed esperienze. In un mondo in cui più della metà della popolazione ha meno di 30 anni e quasi il 90% dei giovani vive in paesi in via di sviluppo, è essenziale che questi svolgano un ruolo centrale nei processi decisionali. 9 dei 16 Young Leader erano poi ragazze, che hanno invocato società inclusive dove vengano concesse pari opportunità come ingrediente essenziale per il raggiungimento degli obiettivi del millennio. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Euroreportage. In collaborazione con Euronet Plus.